mattini. Non ne possiamo più per più di un milione. E buonasera a tutti e a tutte all'ascolto. Questa qui è Entropia Massima. Oggi è il 27 novembre e questa qui è Antropologica. Benvenuti in un'altra clamorosa puntata. Ho abbassato un po' la musica. Un'altra puntata del ciclo di Entropia Massima, che abbiamo detto quest'anno per la prima volta abbiamo introdotto, dopo tante scienze super dure, abbiamo introdotto per la prima volta una scienza sociale. Abbiamo introdotto Miriam con Antropologica. Questa qui è la seconda puntata di Antropologica. La prima era andata molto bene, abbiamo fatto il podcast, ricordo che tutte le nostre puntate sono in podcast, quindi sorelle e fratelli all'ascolto, compagni e compagne, eccoci qua. Questa qui è Entropia Massima e vi ricordo che questa è Radio Onda Rossa 87.9, ondarossa.info. Vi ricordo che la radio, ve lo ricordo all'inizio, ve lo ricorderemo anche alla fine, che la radio è la radio di chi se la sente, è la radio di chi si autogestisce, che permette anche la creazione di l'esistenza di questi spazi di libertà e di riflessione collettiva. E la novità di questa settimana è che sono arrivate le agende del 2024 di Scarceranda, e va bene, le potete trovare in tutti, c'è lo spottino che va, comunque le potete trovare in tutti gli shop di movimento, come viene detto nello spottino, ma anche in alcune librerie, per esempio qui a San Lorenzo ce l'hanno varie, e comunque se non lo trovate alla libreria Antigone c'è anche a Milano, c'è in vari posti in tutta Italia, si può ordinare da lontano, ma se uno sta a Roma può venire qui in radio a ritirare la copia o le copie di Scarceranda 2024. Allora io direi che, come al solito, non indugio nelle chiacchiere in cui indugio di solito e lascio ritorno nella mia ruolo parco di fonico e lascio la parola a Miriam. Grazie Lorenzo e benvenute a tutte e tutti. Allora, io appunto sono Miriam, sono un'antropologa e questo, come diceva Lorenzo, è proprio il secondo appuntamento con Antropologica, la prima trasmissione interamente dedicata all'antropologia di Radio Onda Rossa. Per chi avesse perso la puntata del 30, vi ricordo appunto che lo trovate sul podcast su ondarossa.info. Come abbiamo detto il mese scorso, l'antropologia è una disciplina che studia l'umanità da numerose angolazioni, sotto numerosi interstizi, adottando più o meno posizionamenti politici, usando vari strumenti di osservazione e analisi, e poi molteplici approcci teorici e metodologici per i fini, direi, più eterogenei. La puntata di oggi, dunque, l'antropologia di cui parleremo, è quella che si è dedicata a studiare due fasi vitali dell'umanità migrante, o meglio dell'umanità che in questa categoria di migrante è rimasta suo malgrado impigliata, imbrigliata anche direi. Quindi ci muoveremo oggi come un pendolo, ai margini di diversità temporali, oscillando quindi tra l'adolescenza e la tarda adolescenza e l'anzianità nei paesi di approdo migratorio. Quindi adolescenza e anzianità, riflettiamo un po' sul fatto che sono concetti che di per sé non sono assolutamente così scontati come forse appaiono. ma occorre comprenderli e contestualizzarli di volta in volta. Ma che significa questo contestualizzarli e comprenderli di volta in volta? Siamo sicure che l'adolescenza, così come l'anzianità, così come le consideriamo nell'area sociale e culturale dell'Occidente, siano le stesse in tutto il mondo? Che il proprio corpo, che la persona possa essere costruita, fabbricata sin da bambina, quindi cullata, accudita, educata, curata nello stesso modo? Ancora siamo certi e siamo certe che tutti possono studiare, lavorare, sposarsi, partorire, diventare genitori, e proprio perché parliamo anche di anzianità, diventare nonni, diventare antenati, persino con gli stessi tempi, nelle stesse forme o attraverso pari processi e tappe di socializzazione? Io ho i miei dubbi, per non dire certezze. La psicologa e antropologa Simona Taliani, in un bel articolo dal titolo «I prodotti dell'Italia, figli nigeriani tra tutela, diritto e amore materno molesto», pubblicato sulla collana Minori e Giustizia di Franco Angeli nel 2012, scrive, e cito: «Quando nel 1975 Abdelmalek Sayyad, che era un sociologo algerino, incontra Zawa, comprende di essere al cospetto di una giovane ragazza algerina armata di grande lucidità, una lucidità che le apparteneva perché era stata a lungo attrice e spettatrice di un fenomeno sociale imponente, l'immigrazione della sua famiglia, e perché aveva saputo, meglio di altri, oggettivare questa sua condizione straordinaria di essere soggetto e allo stesso tempo oggetto di ricerca». Senza mezzi termini né eufemismi lenitivi, Zawa lascia in eredità parole dure, dure come pietre, diceva Sayyad, a coloro che l'ascoltano. Il suo discorso è una ferita aperta sul mondo della migrazione, sui suoi genitori e in filigrana sulle due società che suo malgrado le appartengono, senza tuttavia riuscire a garantirla. Alla fine dirà: restiamo degli emigrati, qua e laggiù. È Zawa che dice a un Sayyad attento quanto questi prodotti della Francia, che sono i figli degli immigrati, diventino crescendo nemici usciti dal ventre, figli stranieri ai suoi stessi genitori. Fanno eco alle sue parole quelle del padre, non meno audaci e feroci: la vita per noi che siamo emigrati, noi che siamo fuggiti, è la lotta contro l'impossibile, innanzitutto contro noi stessi. Noi che ci detestiamo perché c'è di che disperarsi nella vita che conduciamo. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrive jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. J'en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà. Bentornate e bentornati ad Antropologica di Entropia Massima sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Oggi abbiamo qui due ospiti davvero eccezionali che ci spiegheranno nel corso di quest'ora insieme alcuni aspetti dell'adolescenza e dell'anzianità migrante. Iniziamo col dare la benvenuta a Gloria Frisone. Gloria! Buonasera. Buonasera, grazie Gloria di essere qui. Grazie a voi dell'invito. Cara, Gloria è stata una docente a contratto di antropologia medica all'Università di Milano Bicocca e docente di antropologia culturale all'Università di Milano e di Udine. Si è occupata in particolar modo di ricerche sul tema dell'invecchiamento, delle malattie neurodegenerative e del benessere nella società contemporanea. Ma insomma Gloria, noi un po' già ti conosciamo perché il mese scorso abbiamo ascoltato la tua voce nella rubrica che chiude la trasmissione, cioè il bugiardino dell'antropologia. Qui ci hai dato una gran bella definizione di antropologia medica ed è proprio da qui che vorrei partire, Gloria, dall'antropologia medica che, come ci dicevi, si occupa di salute, di malattia, di sistemi di cura, di corpi e dei moti biologici e sociali, anche culturali, che li costruiscono e li determinano. Quindi iniziamo proprio da un processo vitale, quello dell'invecchiamento, che per molti anni è stato probabilmente un po' negletto, direi poco studiato, che dici, dalle scienze sociali, e mi sembra ancora di più quando è rivolto alla popolazione straniera, migrante, esiliata. Quindi ti vorrei chiedere se ti va di raccontarci in che modo l'antropologia medica che hai messo in atto tu attraverso la ricerca che hai svolto se n'è occupata. Certamente, come dicevi tu Miriam, effettivamente l'invecchiamento è un fenomeno vitale che però non viene mai letto alla luce della sua vitalità, ma sempre alla luce di una del fine vita, viene letto attraverso la prospettiva del fine vita, come se fosse l'anticamera appunto della parte terminale, della parte finale della nostra traiettoria autobiografica. In realtà appunto è un processo vitale, cioè fa parte della vita, è sempre scontato dirlo, ma non è affatto scontato dal momento in cui le retoriche, insomma, dominanti o anche i punti di vista scientifici dominanti assumono l'invecchiamento come un semplice fenomeno biologico. Ecco perché l'antropologia può essere preziosa, uno sguardo un po' diverso può essere prezioso, perché ci restituisce la complessità di questo fenomeno, di questa realtà dell'invecchiamento, analizzandolo sotto più punti di vista, alla luce soprattutto di quello che anche nel bugiardino definivo il corpo sociale, il corpo politico, un corpo che quindi non è soltanto un corpo biologico, e quindi anche il corpo che invecchia non è soltanto biologico e non invecchia solo dal punto di vista biologico. Ecco che proprio all'inizio del mio percorso, insomma, di ricerca ho cominciato a maturare un interesse verso le tematiche dell'antropologia medica e ho cominciato a riflettere su come l'antropologia culturale e medica in particolare potessero dare un contributo al tema dell'aging, appunto, dell'invecchiamento. Si parla di aging spesso anche per abbandonare un po' una visione stereotipata della vecchiaia che la vede come una fase di declino delle proprie capacità, di declino delle proprie facoltà cognitive, delle proprie capacità fisiche, della forza e della salute. Invecchiamento invece ha l'invecchiamento in quanto processo, quindi fotografato attraverso la nozione di aging, questa nozione anglosassone che è rientrata nell'uso quotidiano, diciamo che rappresenta forse meglio questa proceduralità del fenomeno invecchiamento, no? Il fatto che sia un processo e non un'entità temporale statica. Sì. È uguale per tutti. Ecco, l'antropologia può dare una visione più globale, più attenta soprattutto alla singolarità e alle esperienze delle persone stesse che invecchiano. Mi sembra veramente molto, molto interessante quello che dici, anche perché ce lo stai raccontando in termini di processo, quando invece in effetti l'invecchiamento sembra a un certo punto arrivare a una stasi, come dici tu, un fine vita, così è rappresentato nella società. Che ne pensi? Ho capito bene quello che mi stai dicendo? Certamente, la cultura medicalizzata spesso ci espone, ci spinge a raggiungere degli ideali, fa aspirare anche a degli orizzonti, a delle prospettive quasi chimeriche. Si parla tanto ad esempio di invecchiamento di successo, il famoso successful aging, di invecchiamento attivo. Insomma, ci si pone delle aspirazioni che sono estremamente individualizzanti, estremamente lasciate alla responsabilità delle soggettività individuali e della capacità dei soggetti individuali di prendersi cura di sé, il famoso cura sui, diceva un nostro caro filosofo Michel Foucault già negli anni 70. Ecco, sulla scorta di questo mito dell'invecchiamento attivo, dell'invecchiamento di successo, si offusca in realtà il fatto, e che è la cosa che l'antropologia medica in particolare mette chiaramente in luce, che l'invecchiamento necessariamente risponde anche a delle precondizioni, a delle determinanti che sono determinanti sociali, politiche ancora una volta. Non tutti invecchiamo allo stesso modo, ma perché non tutti possiamo, abbiamo gli stessi accessi alle risorse di un invecchiamento effettivamente positivo, di un invecchiamento di successo. Che cosa significa, secondo la vulgata mediatica e scientifico-biomedica, invecchiare bene? Significa appunto sapersi prendere cura di sé, sapersi alimentare, avere quindi un'igiene di vita corretta, avere appunto, come dicevo prima, sulle proprie spalle la responsabilità della cura di sé, senza però considerare il fatto che non tutti abbiamo le stesse possibilità e precondizione per poter accedere a un invecchiamento positivo di questo tipo. E poi non dobbiamo dimenticare anche che invecchiare positivamente o negativamente dipende anche dalle proprie rappresentazioni culturali, e infatti il corpo, così come non è soltanto biologico ma è anche sociale, allo stesso modo è anche culturale. Certo. Noi abbiamo delle visioni, delle semantiche, come si diceva, del corpo, della malattia, dell'invecchiamento stesso, estremamente variegate, variabili, che non riguardano soltanto e che non rispecchiano soltanto i confini nazionali, ma che sono culturali nel momento in cui vengono prodotte, coprodotte all'interno delle nostre relazioni sociali, delle nostre relazioni quotidiane. E senti Gloria, ecco, questo che mi stai dicendo anche rispetto alle disuguaglianze sociali, mi sembra che tu stia parlando anche di questo, di classi sociali e quindi di un buon tipo di invecchiamento, oltre che un eterogenee forme di e processi di invecchiare. Tu che hai un'esperienza notevole e complessa anche su alcune popolazioni migranti. Ecco, mi chiedo, rispetto alla mal chiamata macroarea socioculturale dell'Occidente, come i gruppi di popolazioni che hai studiato rispetto a noi che facciamo parte appunto di questa grossa area sociogeografica, affrontano, vivono, costruiscono questo lungo processo vitale che è quello dell'invecchiamento. Certo. Esattamente, la popolazione migrante, non soltanto quella che ho analizzato io, ma in generale gli anziani nelle diaspore, quindi che vivono e che si sono trasferiti nei paesi europei, parliamo di paesi europei, e che si ritrovano a invecchiare nei paesi di accoglienza, si ritrovano a vivere quella che Sayad, un altro caro nostro amico, un amico degli antropologi, chiamava il paradosso dell'alterità, cioè si trovano a vivere in contesti che non li riconoscono come parte di quei contesti, hanno vissuto una vita intera, hanno lavorato una vita intera all'interno delle nostre società, e pur tuttavia la migrazione continua a essere descritta mediaticamente come un fenomeno emergenziale e soprattutto come un fenomeno che interessa soltanto la generazione più giovane. Non capita spesso di incrociare il fenomeno migratorio e il fenomeno dell'invecchiamento demografico, e sta qui l'interesse anche della ricerca antropologica, che si interroga sull'incrocio di queste due determinanti e che mette in luce anche delle esperienze di vita che solitamente sono sottaciute, rese invisibili dalle retoriche dominanti, mediatiche e anche propagandistiche, soprattutto sulla migrazione. Ecco, gli studi etnografici che incrociano migrazione e invecchiamento fanno un po' questo, aggiungono anche la consapevolezza che il fenomeno migratorio non riguarda soltanto le giovani generazioni, ma anche che i percorsi di invecchiamento possono anche intersecare percorsi di mobilità transnazionale, cioè di mobilità che travalica i confini nazionali. Nel mio caso, per quanto riguarda ciò che ho svolto in termini di ricerca antropologica, e poi forse un po' più avanti parlerò di ricerca etnografica, ma definendola un pochino meglio e cercando di spiegare cosa intendo per ricerca etnografica, Sì. Ecco, mi sono occupata in particolare della condizione di marginalità territoriale, precarietà economica, isolamento sociale e fragilità sanitaria dei migranti di età superiore ai 55 anni, quindi anziani ma anche precocemente anziani, giunti in una regione della Francia che si chiama La Seine-Saint-Denis, che in realtà è un dipartimento a nord di Parigi, all'interno quindi dell'Île-de-France, che sono giunti in questo luogo a partire dal dopoguerra e soprattutto dall'Africa settentrionale e subsahariana. Ci sta parlando di un complesso, di un contesto molto molto complesso. Saint-Denis è un contesto abitato storicamente, come dici, da una migrazione molto longeva, proviene direttamente dalle colonie, quindi ci parli non di un contesto qualsiasi. Certo, è un contesto in cui la migrazione è una terra di migrazione, la definiscono così anche gli stessi abitanti, è una terra di migrazione, una terra anche di accoglienza, se vogliamo, dove c'è un grosso anche una grande capacità intrinseca di attivismo politico, sociale, di intervento in prossimità con le comunità più precarie, più svantaggiate. Ecco, proprio in questa realtà, che è una realtà fortemente precarizzata da uno sviluppo industriale preponderante e da uno stile di vita fortemente legato allo sviluppo operaio, quindi allo sviluppo industriale, territorio urbano particolarmente degradato e particolarmente anche esposto all'inquinamento, insomma che stratifica davvero diverse problematiche che concernono tra l'altro anche la salute degli abitanti. Ecco, in questo luogo si concentra la maggior parte della popolazione migrante, soprattutto proveniente, come dicevi tu Miriam, dalle ex colonie francesi, che appunto veniva impiegata già dagli anni 60 e 70 alla ricostruzione della Francia sconvolta dalla guerra, e quindi che hanno contribuito, una popolazione che ha contribuito alla rinascita edilizia innanzitutto, quindi materiale, veramente materiale, e anche però alla rinascita culturale, alla rinascita sociale, politica dello Stato francese. Tutto questo però non gli viene riconosciuto, non solo non è riconosciuto, ma questa popolazione vive quel paradosso dell'alterità di cui parlavamo prima, cioè è resa completamente invisibile. Anche in Francia si parla di migrazione soltanto in termini di migrazione giovanile. Ecco, questi migranti tuttavia invecchiano, cominciano a invecchiare e cominciano a aver bisogno, una necessità, così come tutti gli anziani, di cure, di assistenza. Per cui a un certo punto sono necessariamente resi visibili dalla condizione di salute che è resa ancora più fragile da una vita legata alla condizione operaia, quindi ad un lavoro particolarmente insalubre, anche proprio dal punto di vista fisico, una condizione anche di precarietà economica che si trascina e si eredita dal primo arrivo sul terreno francese viene poi emanata anche verso dopo decenni di vita in Francia, e quindi queste persone continuano a vivere ad esempio in luoghi particolarmente insalubri, in abitazioni fatiscenti. In particolare la maggior parte degli uomini risiede ancora in quelli che vengono chiamati i foyers des travailleurs migrants, nel senso che per tradurlo in italiano sono gli alloggi dei lavoratori migranti, appunto, alloggi proprio costruiti appositamente dalle autorità francesi, appositamente per accogliere solo ed esclusivamente la manodopera migrante, che doveva essere una manodopera temporanea. Ma mi chiedo, tu giustamente parli di persone migranti, ma mi chiedo, stai parlando però di persone che sono molto longeve sul territorio francese, quindi si può ancora parlare di persone migranti? È molto interessante questa domanda, e in effetti in realtà quando si parla di anziani migranti si parla di quella che viene considerata la cosiddetta generazione zero, cioè i migranti che migrano appunto già in età avanzata, soprattutto facendo valere le politiche dei ricongiungimenti familiari, e quindi aggiungendosi ad esempio a dei figli che sono già emigrati in uno dei paesi europei e che richiamano attraverso il meccanismo del ricongiungimento i propri genitori per diverse ragioni, che non sono soltanto sanitarie, anzi tante volte i migranti anziani che possono essere in maniera pregiudiziale visti come corpi fragili, in realtà sono al contrario un perno importante, un sostegno importante per tutta per la famiglia, e quindi vengono richiamati anche per aiutare delle situazioni di difficoltà che vivono i familiari immigrati nei paesi, magari più giovani emigrati nei paesi europei. Certo. Ecco, detto questo, però ci sono gli anziani che invece sono immigrati in età giovanile e che sono in diaspora, infatti forse più propriamente sarebbe lecito, è stato utilizzato questo termine di anziani nella diaspora per riferirci agli anziani che appunto sono migrati in età giovanile e che poi si ritrovano a invecchiare nei nostri paesi occidentali. Parlavo di migranti anziani perché quando all'epoca in cui ho intrapreso questo studio, eravamo in piena pandemia, in particolare nel contesto francese si parlava molto poco di diaspora e si parlava tanto di migrazione. In particolare la migrazione e l'immigrazione è stata definita proprio ufficialmente dall'INSEE, che è l'equivalente dell'ISPE italiano, come la condizione di coloro che sono nati in un paese straniero e che risiedono sul suolo francese. Quindi una condizione, diciamo, biografica, sì. La condizione di colui che vive in un paese diverso da quello in cui è nato. Per questo ho scelto di utilizzare questa terminologia, focalizzandomi appunto su una definizione istituzionale per dire una parolaccia del gergo antropologico, emica, sì. Nel senso che va a osservare il punto di vista della popolazione oggetto di studio. In quel caso l'oggetto del mio studio era certamente la popolazione migrante, ma all'interno di un contesto francese, e quindi mi sono attenuta alla definizione ufficiale appunto esposta dalle istituzioni francesi. Grazie Gloria. Senti, tutto questo bagaglio così veramente complesso, immagino molto di più di quello che ci hai raccontato, insomma, ed eterogeneo di conoscenza che hai acquisito, che hai visto, che hai osservato, che hai guardato, che hai raccolto, analizzato, anche probabilmente pubblicato, anzi io so che tu l'hai pubblicato, quindi lo possiamo dire. Secondo te questo studio, questi tipi di studi, questo tipo di conoscenza che tu in questo caso hai prodotto, come si può spendere nella nostra società o nel contesto sociale in cui ha lavorato, quindi in questo caso alla Seine-Saint-Denis? Che cosa se ne possono fare di questo studio le persone migranti di, della Seine-Saint-Denis? Allora, più che le persone migranti, che cosa si può fare in favore delle, delle persone migranti a partire da ciò che c'è già nel, sul territorio, a partire dalle risorse del territorio? Come dicevo prima, è un si tratta di un territorio, la Seine-Saint-Denis, estremamente ricco dal punto di vista attivistico-associativo, quindi ci sono tantissime associazioni che intervengono in prima linea a supporto della popolazione migrante. C'è però, esiste però una discrepanza che la, la mia ricerca ha messo in luce, ma anche altre ricerche hanno messo in luce, tra la, l'azione volontaristica, politica volontaristica delle associazioni locali la reticenza da parte delle istituzioni invece nazionali francesi di costruire dei dispositivi che possano andare a supporto di una popolazione estremamente precaria, estremamente fragile, che però ha una provenienza, una connotazione sociale estremamente marcata, cioè sono stranieri. Sono stranieri oppure sono, hanno un background migratorio, quindi sono stati magari naturalizzati, ma conservano un background migratorio che quindi li distingue dal punto di vista delle origini, cosa che per quanto riguarda la retorica francese, soprattutto politica, non può essere riconosciuto, cioè non può essere riconosciuto il fatto che esiste ancora oggi una discriminazione sulla base delle origini. Ovviamente questa discriminazione sulla base delle origini non è, è accidentale, è legata al fatto che, che questa popolazione vive ancora oggi appunto in questi luoghi che sono stati luoghi di migrazione, ma luoghi di migrazione perché si è scelto che diventassero luoghi di migrazione, perché erano estremamente periferici, lontani quindi dai centri del potere, vicini per contro alle strutture di produzione industriale. Quindi è una discriminazione involontaria in qualche modo che l'istituzione ufficiale dichiaratamente non ha scelto, ma che ha prodotto, storicamente prodotto, perché sono persone che sono andate ad abitare appunto in luoghi estremamente isolati, dove ci sono pochi servizi, dove l'assistenza medica è porosa, farraginosa, fa fatica, insomma, e poi perché è una popolazione fortemente fragilizzata dalle proprie condizioni di vita. Grazie, Gloria. Senti, in una pillola sì? Rapida. L'antropologo non è un lavoro per? Allora, intanto grazie per questa domanda a cui ho sempre sognato di poter rispondere. Allora, l'antropologo a mio avviso non è un mestiere per persone sazienti, perché prima dicevo, probabilmente avrò il tempo non ho avuto il tempo di spiegare che cos'è l'etnografia. L'etnografia è il metodo fondamentale della ricerca sul campo di un antropologo e viene dall'insegnamento di del nostro più antico maestro, che è Malinowski. E se vogliamo dare una definizione anche etimologica vicina alla visione di Malinowski, possiamo spezzare il termine etnografia in due parti, etno e grafia, quindi la scrittura dell'etnia. Ma se Malinowski considerava l'etnia nel senso proprio, cioè come gruppo dotato di un'identità e di un'origine abbastanza rigida anche dal punto di vista dei confini, oggi consideriamo l'etnia in un altro senso, in un altro modo, una comunità, un habitat di significato, una comunità di significato, che quindi può avere anche dei confini molto porosi. Grazie, ecco. Cara, grazie, sei stata fantastica. Noi ti dobbiamo salutare perché dobbiamo passare al nostro secondo ospite che ci aspetta, e Lorenzo adesso ci passa un bellissimo pezzo musicale. Io ti ringrazio veramente molto e sei stata molto generosa e ci sentiamo prestissimo. Grazie a voi. Ciao cara, ciao, a presto. Ciao. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre ce serait normal. Balance ton quoi, Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Fallait te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Fallait te faire en oui, je serais poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde? Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. Bentornate e bentornati ad Antropologica, la trasmissione interamente dedicata all'antropologia di Antropia Massima sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure in diretta da ondarossa.info. Abbiamo appena ascoltato Balance Ton Quoi di Angèle, che è una cantante e compositrice belga. Questo pezzo mi piace molto perché con ironia e con un non celato posizionamento politico denuncia il sessismo, le eterogenee violenze agite nei confronti di noi donne. E Balance Ton Quoi fa infatti riferimento a Balance Ton Porc, che letteralmente possiamo tradurre con denuncia al tuo porco, cioè denuncia chi ti ha molestata, chi ti ha violata, chi ti ha stuprata, chi ha abusato di te, che in Francia costituisce una variante locale del movimento MeToo. Ma insomma, lasciando Angèle, ma lasciandolo sempre in filigrana, passiamo al nostro ospite Francesco Bachis. Francesco, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie, grazie tantissime di essere qui con noi. Grazie, allora, a voi di aver visitato, Miriam. A te, figurati di esserci, il mio mentore tra l'altro. Francesco Bachis è un ricercatore di antropologia culturale all'Università di Cagliari. Ti occupi di migrazioni, di razzismo e memorie e poi di mondi. Molto interessante questo aspetto anche per la mia famiglia, poi insomma se abbiamo tempo ci addentreremo anche di mondi post-minerari sui quali hai realizzato delle ricerche riguardanti i bacini post-estrattivi, metalliferi e carboniferi. Più recentemente hai iniziato ad occuparti di social network con un focus specifico sull'uso di TikTok nelle giovani generazioni in Italia, le cui origini sono provenienti da altre latitudini. C'è chi li considera, abbiamo visto ora proprio con Gloria, ancora persone migranti, chi ancora assolutamente persone straniere, e parliamo delle cosiddette seconde generazioni. Quindi insomma, io immediatamente ti lascerei la parola chiedendoti, Francesco, proprio di questo tuo ultimo campo di interesse, perché è veramente nuovo, io penso. Di cosa si tratta? Sì, è nuovo anche perché è nuovo il terreno, cioè il social network TikTok, che è delle cinque company più importanti dei cosiddetti social network del livello globale, è il più recente, essendo stato distribuito a livello mondiale nel 2017, e anche dal punto di vista economico, insomma, dei fruitori il più dinamico, nel senso che su scala globale, ma anche qui in Italia, i dati sono gli stessi, riguarda le generazioni e le coorti più giovani. Io ho iniziato a occuparmi di questo social network qualche anno fa, ho iniziato proprio per i miei interessi migrazionistici, diciamo così, perché avevo ricevuto, essendo io un boomer, come si dice in gergo, anche se questa parola è molto, siamo in due, molto complessa da gestire dal punto di vista dell'età delle persone a cui viene affibbiata, però ecco, navigando e frequentando altre reti sociali, altri social network, mi era giunto un video di una cosiddetto migrante di seconda generazione, preferisco chiamare i nuovi italiani o con un'espressione più vicina a quella francese, giovani venuti dall'immigrazione, dalla migrazione. E questo giovane all'epoca non era particolarmente noto, poi è diventato Kaby Lamé, cioè il più importante TikToker del mondo, che è un ex operaio nativo di Dakar, emigrato molto giovane in Italia, nel nord Italia, che nel 2020 venne licenziato proprio insomma, nel periodo del Covid, della prima ondata di Covid, e così a casa sua si iscrisse a TikTok e cominciò a fare dei video, fra i quali quello che arrivò a me, che raccontava come la gente, secondo uno schema insomma piuttosto comune sia su Instagram che su TikTok che su Facebook anche, una specie di video meme, raccontava come la gente pensa che lui fosse arrivato in Italia e come in realtà era arrivato realmente, quindi era arrivato realmente in aereo, e invece nella parte video dedicata a come pensa la gente c'era lui che combatteva con gli squali, saliva sui barconi, e avevo trovato molto efficace, ripeto, è una delle primissime cose di Kaby Lamé, prima ancora del gesto che l'ha reso celebre. E da lì ho iniziato a occuparmi di questo mondo che per me era un mondo totalmente sconosciuto, insomma è stato evocato lo spirito di Bronislaw Malinowski, ecco, per me era proprio un'isola deserta, nel senso immaginate di essere sbarcati su un social network non deserto, ma insomma che non conoscete, ecco io stavo in questa condizione e lì scoprì una rete che magari per i più giovani, sicuramente per le generazioni che frequentano TikTok da nativi, diciamo così, è anche una banalità dirlo, una quantità enorme di giovani venuti dalla migrazione con percorsi biografici di successo all'interno di questo social network e con discorsi che non sempre sono esplicitamente connessi a un antirazzismo dal basso o a diciamo a tematiche più in generale dire, interculturali, ecco, di questo genere, ma che talvolta lo fanno in maniera molto raffinata, molto moderna, nel senso buono del termine, attraverso procedimenti di rovesciamento degli stereotipi intorno alle migrazioni, sia quelli negativi che quelli positivi, c'è da dire, forme di antirazzismo diciamo implicito e soprattutto una grande ironia che caratterizza il grosso dei contenuti di questo social network, come strumento però di emancipazione anche personale, giocando in sostanza con una ambiguità di fondo, cioè che quella che TikTok rappresenta forse in maniera paradigmatica il social network più ecco quello che promette di più la costruzione di percorsi di successo delle persone, in cui maggiormente i soggetti si mettono in campo, insomma i classici balletti, le challenge addirittura che sono una cosa proprio tipica di questo TikTok, le sfide, e quindi qualcosa di più individualista, forse anche di più neoliberista da questo punto di vista, è difficile pensarlo, che però appunto all'interno viene utilizzato e viene vissuto il circolo dei prodotti anche particolarmente interessanti e soprattutto che hanno successo, ecco, questo mi stupì immediatamente. E lì naturalmente per un antropologo si pone un problema di fondo che è quello di come stare sui social network, che è un problema tutt'altro che risolto, ecco, non esiste un Malinowski della digital ethnography, diciamo così, dell'etnografia digitale. Giusto per per dire anche sì. Chi ci ascolta, non tanto dire chi è Malinowski, perché magari non importa, ma ecco, qual è la differenza sostanziale, per esempio, fra un antropologo come te che come sta su TikTok? Si registra e guarda e osserva, immagino, poi ce lo direi tu, e invece un Malinowski, che è un antropologo, che andava, si recava in un altro contesto, al di fuori del proprio, per fare proprio un lavoro che possiamo definire di campo, ecco, giusto per essere, per dare due parole, perché mi rendo conto che chi ci ascolta può non saperlo, l'abbiamo già citato due volte. Eh già, in effetti hai ragione, sì, diciamo la ricerca etnografica in antropologia, che è la base, come diceva anche Gloria precedentemente, della sia metodologica che forse anche esperienziale e scrittoria dell'antropologia, perché indica contemporaneamente un'esperienza di vita prolungata, di solito continuativa, che noi compiamo in un gruppo con lo scopo di comprenderne organizzazioni sociali, cultura e elementi specifici, una metodologia e anche il modo di scrivere l'etnografia, no? Ecco, stare molto tempo intimamente a contatto con i mondi sociali che si vogliono indagare, impararne la lingua, apprendere, acquisire gli stili di vita, insomma, forse con un'espressione un po' romantica si può dire che l'etnografia è trasformare la propria stessa esistenza, la propria stessa vita in uno strumento di ricerca. Ecco, come fare di questo strumento che è molto intimo. Come l'hai fatto su TikTok tutto questo? Come l'hai trasformato? Dentro TikTok, ora bisogna partire, a mio avviso, da un primo elemento, cioè che le nostre vite, di chiunque antropologo o non antropologo, sono profondamente imbevute di social network e di un molto differenziato, naturalmente molto complesso, a fare scienze delle comunicazioni, naturalmente, dei social network e degli smartphone, cioè delle infrastrutture tecnologiche e delle piattaforme, che sempre di più sono parte integrante delle nostre relazioni e dei processi sociali che gli antropologi indagano anche con gli strumenti tradizionali. Ecco, mi viene da dire che forse non ci si può, cioè ci si deve porre questo problema di come stare sui social network, anche se uno si occupasse, che ne so, della festa di Santa Maria di Utah, ecco, del paese in cui vivo io, anche di un tema che potrebbe sembrare lontanissimo e molto concreto, molto fisico. Questo perché le vite dei soggetti che incontriamo anche fisicamente sul campo sono imbevute e piene di significati, di reti di relazione connesse a queste piattaforme. Quindi trovare un modo per starci da antropologi ed antropologhe dentro queste reti sociali è molto importante per tutti, tanto più per chi ne ha fatto il terreno di lavoro. E quindi che significa fare etnografia su TikTok? Beh, significa ovviamente iscriversi, significa ovviamente apprendere appunto i modi di vita di quella comunità, le interazioni, i tipi di linguaggio, significa partecipare, quindi anche commentare e anche pubblicare, naturalmente, ciascuno secondo le proprie attitudini, naturalmente, dei contenuti, e osservare partecipando, esattamente come si fa nella realtà. Ora, questo è più facile a dirsi che a farsi, naturalmente, e infatti questo terreno, anche l'antropologia, non ha dei modelli prestabiliti, ammesso che ne esista uno, diciamo, etnografico classico, no? Però più o meno là ci orientiamo tutti quanti quelli che fanno questo mestiere hanno avuto il loro battesimo del fuoco. Ecco, il mio battesimo del fuoco su TikTok è stato particolare perché proprio perché le nostre vite sono permeate di queste reti sociali e noi le usiamo nella realtà, nel senso, noi abbiamo, quando abbiamo lo smartphone in mano, non siamo esseri virtuali, siamo esseri concreti che stanno in posti e che usano una piattaforma che è un social network. E quindi il posto dove stiamo, io ho iniziato a pormi questi problemi anche rispetto al luogo dove utilizzavo e ai tempi della mia vita in cui utilizzavo questo social network. E inizialmente, e questo spero non lo ascolti, insomma, il mio direttore di dipartimento, inizialmente lo facevo in ufficio, cioè stavo in ufficio a fare campo, certo, a stare su TikTok, ecco, no? E a guardarmi i video e a prendere degli appunti, a scaricarmi con tutta una, insomma, ma interagivi anche con questi, certo, contenuti? Sì, okay. Assolutamente interagivo, poi ho iniziato a interagire anche fuori dal mondo di TikTok con alcuni soggetti con cui ho lavorato là dentro, e poi mi rendevo conto che però quello non era non era che una specie di, ecco, nel linguaggio giovanilistico si dice lurking, cioè partecipare a delle cose, guardare e basta, fare osservazione distaccata, diciamo, diremo noi. E quindi ho iniziato a utilizzare lo smartphone e a stare su TikTok esattamente cercando di imparare i tempi e i luoghi dei nativi di TikTok. E cioè, per esempio, utilizzandolo durante il viaggio, alle fermate del bus, nelle pause tra una lezione e l'altra, in questo caso tra le lezioni che facevo io, non che seguivo, come invece capita agli adolescenti o i post-adolescenti, che sono la corte, insomma, più importante, che utilizza questo social network. E lì la realtà concreta della soggettività dell'antropologo che sta sul campo cercando di imparare a usare anche nei tempi e nei modi della realtà concreta questo social network come nativi, cioè mettersi dal punto di vista del nativo, perché io non sono assolutamente un nativo ovviamente di TikTok dal punto di vista della mia esperienza personale, e pone dei problemi esattamente come li pone la realtà concreta di tutti i giorni a tutti gli antropologi e gli antropologi che fanno ricerche fra virgolette canoniche. Quindi tu sei un quarantenne maschio bianco che guarda un social network in cui la maggior parte dei contenuti continuano a essere dei balletti di adolescenti, soprattutto donne, perché è largamente femminile come users il social network TikTok, in un contesto dove lo guardano anche i nativi, ma tu non sei nativo, e quindi poi, diciamo, anche, ecco, su questo ho scritto anche qualche pagina, puoi anche essere visto come Ecco, non ti prendono per un digital ethnographer normalmente. Certo, anche perché è difficile anche tra, cioè un codice forse che non gli appartiene, certo, diciamo così. Certo. Ma quindi sempre, diciamo, quindi ti stai sempre riferendo anche a queste osservazioni, a questi nuovi italiani, a queste mal chiamate seconde generazioni, insomma, che c'è stato un bel ripensamento anche su questo concetto. Sì, forse vale la pena anche dire qualcosa su che cosa sono questi oggetti digitali. Sono dei video, la maggior parte degli ascoltatori sapranno più o meno che cos'è TikTok, che è una piattaforma di condivisione, pubblicazione e produzione in realtà anche di piccoli video, e in Italia hanno avuto un certo successo, cioè sopra il milione di follower ci stanno parecchie persone che hanno un background migratorio dal più noto e più importante al mondo attualmente, cioè Kabila Me, di cui abbiamo già parlato, ad altri meno noti ma comunque con un certo seguito come Raissa e Momo, che sono una coppia in cui Momo è il nickname di Mohamed Ismail Bayed, che è nativo di Casablanca, e Raissa Russi invece è una ragazza milanese, che sono una coppia che, diciamo, mette in scena spesso una economia molto tagliente, le prese in giro alla retorica della scontro di civiltà, ma anche le retoriche del multiculturalismo all'italiana, mettiamola così, e attraverso il rovesciamento degli stereotipi fondamentalmente. Un altro è Manuel Aslani, che è un operaio di origine albanese che ha avuto un certo successo con una videoproduzione musicale che si intitolava Krenar, cioè Orgoglio, nel 2021, e che è stata veicolata su YouTube ma ha avuto successo principalmente su TikTok attraverso uno stratagemma che è quello della imitazione della lingua dei padri, diciamo così. Qua c'è l'elemento anche di, se vogliamo, di comunicazioni intergenerazionali fra prima e cosiddetta seconda generazione migrante, e quindi fa finta sostanzialmente, pur parlando benissimo italiano, fa finta di parlare albanese, ecco, cioè italiano come parlano con lo stereotipo degli albanesi, e rovescia in maniera ossessiva e diciamo anche molto forte gli stereotipi attorno all'Albania e agli albanesi. Quindi insomma dice non è vero che noi rubiamo le macchine, in realtà spacciamo cocaina e con questo paghiamo le tasse. Infatti c'è qualcuno qui in radio che ricorda Bello Figo, esatto, che Bello ha creato Figo, un po' di umori, insomma. Sì, è un antesignano della provocazione, sì, così forte. Ma uno si chiede naturalmente, ma perché studiare appunto altri come Nino Bacchio, che anche lui è un giovane albanese che insomma che fa dei video in cui finge di non far sentire il suo accento albanese, e poi quando registra gli audio su WhatsApp e dopo quando li riascolta si sente invece lo stereotipo dell'albanese che ruba macchine, insomma, queste cose qua. Perché studiare? Sono interessanti a mio avviso, perché forse, ecco, la formula più efficace sarebbe quella che Antonio Gramsci usò per il folklore, cioè quello di coacervo indigesto, quindi di codici, di culture visuali, di detto di man politici, di significati impliciti, traiettorie biografiche, spessissimo veramente indagando, grattando sotto la superficie virtuale di questi nickname, sono spesso storie, addirittura storie operaie per gli uomini, cioè molti di questi qua, compreso Kabila Me, lavoravano in fabbrica, e quindi, come dire, sono voci subalterne, naturalmente con tanto di contenuto implicito, con tante contraddizioni, come ci ha insegnato Antonio Gramsci, intorno al folklore, alla cultura, alla visione del mondo, delle classi subalterne, ma che ci parlano e prendono la parola fuori anche da criteri di rappresentazione persino delle associazioni cosiddette di seconda generazione, che spesso, non sempre, hanno anche, abitato anche in contesti convegnistici, assumono una certa distanza rispetto a questi discorsi, che naturalmente non sono, continuando a citare Gramsci, organici, no? Però raccontano dei frammenti di percorsi di emancipazione, un modo di interpretare in maniera molto forte la propria condizione, perché è stato detto anche prima sulle generazioni migranti, nel dialogo con Gloria, sono o non sono migranti? Beh, loro non sono assolutamente migranti, la stragrande maggioranza di questi, neanche dal punto di vista tecnico, a parte qualcuno che è nato fuori e poi ha fatto il ricongiungimento, forse si potrebbe dire, sì, utilizzare la nozione di seconda generazione, lo so, ma noi li trattiamo come tali. Perché Kabila Me, quando è andato negli Stati Uniti a ritirare un premio mondiale per il suo successo incredibile, nei social network, nella comunicazione in generale, ha avuto molte difficoltà perché non era cittadino italiano. Esatto, infatti pensavo proprio a lui, perché insomma ricordiamolo che in Italia la cittadinanza è trasmessa secondo il principio dello ius sanguinis, quindi dal diritto di sangue, del genitore a figlio, quindi per discendenza. Quindi per quanto non possiamo e non vogliamo considerare migranti, che migrante non è, e ripensare anche i concetti che ci continuano ad interrogare, quello di seconda generazione, e quindi creiamo nuove categorie come i nuovi giovani, come i nuovi italiani, e tuttavia poi appunto restano di base questa assenza di diritti che probabilmente, ma dimmi tu se interpreto bene anche quello che mi stai dicendo, dà voce a questa subalternità in altri tipi di canali, in altri tipi di piattaforme, di contesti, di sistemi, e si rappresentano in modo altro rispetto a anche una linearità, io direi, passami il termine, un po' detto scompassionevole, insomma un po' buonista, che è quello. Ecco, sì. Io ricordo proprio una trasmissione in particolare su Bello Figo, in cui un altro ragazzo che si definiva di seconda generazione, molto, molto indignato per questo comportamento disdicevole, per queste parolacce, per questa mancanza di rispetto che Bello Figo agiva e proponeva attraverso il corpo, attraverso la parola, le violenze anche che sollecitava, che diceva nei confronti della donna bianca. Quindi lì c'è stato un bel conflitto aperto in queste due maniere, due forme di narrarsi e di autonarrarsi, in questi ragazzi poi nati in Italia sostanzialmente, ma privi di quello ius soli che nulla non si riesce ancora ad attivare, insomma. Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici, Miriam, sono forse diciamo, ricostruendo, anche se parliamo veramente di tempi molto brevi per la ricostruzione storiografica, ma un po' una filiera, una genealogia, quelle sono un po' le origini. Io ci leggo in questi contenuti molta più consapevolezza rispetto al passato, non tanto consapevolezza, diciamo, dal punto di vista contenutistico, ma sul ruolo della comunicazione nel produrre delle forme di voicing proprio di generazioni che sono escluse, e che forse anche per quello che è la mia piccola esperienza, naturalmente fuori da TikTok, trovano anche un terreno decisamente più congeniale di espressione, nel senso appunto che costruiscono percorsi di successo che naturalmente, come chiunque abbia studiato le migrazioni sa bene, è uno degli obiettivi di fondo della migrazione in generale. Non è che i migranti vengono qua per fare gli sfigati, vengono qua per guadagnare di più, no? Cioè, di sotto di tutto questo c'è anche una pressione di questo genere per cambiare la propria vita, la propria esistenza, e quindi forse sono un po' i soldi facili anche che attirano, però poi alla fine quello che materialmente rimane, che è una domanda che mi hanno fatto anche in un convegno, ma cosa rimarrà fra 5-6 anni di queste cose effimere? Non lo so, forse